Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, molti di voi vogliono sapere se anche oggi la borsa sta recuperando e quindi dal panico all'euforia. No, oggi è il momento della riflessione, si va a guardare questo piano, inizia il piano europeo chiaramente, c'è qualche dubbio sulla tenuta di questo piano, ci sono dubbi anche sulla capacità, dubbi ennesimi, sulla capacità della Grecia di veramente ritornare a una soglia di deficit accettabile con quello che è il piano durissimo di rientro dal 14% del deficit sul PIL. Ci sono le stime del Fondo Monetario Internazionale, insomma le borse prendono profitti in alcuni casi, in altri restano più alla finestra. Allora, l'indice oggi oscilla a Milano tra un meno 2 e adesso un meno 0,7%, bene Francoforte, che la borsa è meno toccata da questa ondata di speculazione, è invariata oggi. Londra perde un 2% invece, Parigi perde lo 0,90%, quindi Milano è in linea con Parigi e va meglio di Londra. Male invece Madrid, che è arrivata a perdere quasi 5% oggi in borsa, e l'euro è di nuovo debole. Ripeto, secondo me l'euro 1,26 non è l'elemento così numerico, e il rapporto non è preoccupante, è casomai la tendenza che può lasciare perplessi e dare adito a preoccupazioni, ma insomma siamo a 1,27, 1,26,9 come significato, diciamo che non è che l'euro ne abbia avuto un gran vantaggio da questa, dal piano europeo. Va anche detto che un euro a 1,27 invece che a 1,47 o 1,40 permette anche di esportare un po' meglio, anche la stessa Germania, che ormai, come da più parti leggiamo, ha capito che tutta la sua ripresa si gioca fuori dall'Europa, ed ecco perché è anche meno così empatica nei confronti dei problemi europei. Parleremo di questo alle 18:10 di nuovo, perché da più parti si è scritto sui giornali, si è detto: attenzione, non usate le agenzie di rating come se fossero i nuovi untori di una peste che non è originata da loro. Non attaccate la Germania, perché la Germania in realtà sta attuando una politica di rigore, ha sbagliato i tempi, i modi nella prima fase del salvataggio greco, ma adesso rappresenta obiettivamente un elemento di stabilità. Non usate i fondi speculativi hedge come causa di questo male. Le colpe della speculazione sono da ritrovarsi nella disunità europea. E allora, siccome noi invece abbiamo criticato l'agenzia di rating, criticato la speculazione e criticato anche la Germania, sarà giusto confrontarsi su questo, su chi non la pensa come noi alle 18:10. In apertura parleremo di alcuni dati di carattere economico che riguardano anche l'Italia, appunto stime del Fondo Monetario, stime dell'OCSE su come vanno le retribuzioni, i salari nei vari paesi dell'OCSE e la pressione fiscale. Vi dico subito che l'Italia continua a essere bassa nella classifica, o meglio alta nella classifica nei paesi in cui si pagano più tasse e in cui il cosiddetto cuneo fiscale è ai massimi, la differenza tra quanto costa un lavoratore all'azienda e quanto percepisce il lavoratore in busta paga, per cui nessuna modifica vi è stata sulla pressione fiscale. Devo anche dire che era difficile ridurre le tasse con questi conti pubblici, certo l'unica strada a questo punto è continuare, e magari in maniera ancora più forte, a contrastare l'evasione fiscale, che nel nostro paese resta sempre a livello record, ci batte solo la Grecia da questo punto di vista. E poi però anche le iniziative degli altri paesi europei per quello che riguarda le piccole e medie imprese, le piccole imprese. Noi continuiamo infatti a occuparci di piccole imprese come abbiamo fatto ieri. C'è un mondo finanziario virtuale che, diciamo, orbita in altre sfere, e c'è un mondo reale di piccole imprese, il 98% delle imprese italiane, che cerca di tenere botta, di mantenere gli occupati, di mantenere il tessuto di impresa che c'è in questo paese, e lo dico senza retorica, in sostanza di mantenere anche la coesione sociale, che in questo momento non mi sembra il grande obiettivo né dei mercati finanziari né degli investitori di borsa né degli investitori che vanno a speculare sui mercati. La coesione sociale la mantengono le piccole imprese sul territorio e anche gli strumenti, la cassa integrazione, l'accordo con i sindacati e quant'altro. E quindi vorremmo capire cosa fanno gli altri paesi per aiutare le piccole imprese nel rapporto banca con le banche e nel rapporto con i crediti i crediti dovuti dalla pubblica amministrazione, 60 miliardi di euro. Noi continuiamo a occuparci di queste cose così, insomma, piccole, noiose, prosaiche, come la tenuta occupazionale del paese. I titoli volete sapere? Allora, i titoli, mentre il mercato sta migliorando, si sta riavvicinando alla parità, male Azimut, meno 2,90, come la Popolare di Milano, il Monte dei Paschi, il Banco Popolare perde il 2,80, Mediolanum il 2,60, Mediobanca il 2,5, Intesa meno 2,40, e poi Impregilo meno 2,30, Fondiere meno 2,20, Prismia meno 2, Unicredito meno 1,80, Comital Cementi e Saipem. Ancora tra le banche, UbiBanca perde l'1%, chi guadagna oggi? Exor più 4,1 perché Fiat guadagna il 2, Finmeccanica guadagna il 2,6, Bulgari il 2,2, Telecom Italia guadagna il 2, Terna l'1,70, Tenaris l'1,40, Eni guadagna l'1%, Geox lo 0,70%. Ancora i migliori e peggiori in assoluto: Olidata più 9,40, Philips più 7,80, i migliori, bene anche Tiscali oggi più 6%, i peggiori in assoluto: Borgosesia meno 9%, Stefanelli meno 8,20%, e poi PMS meno 6,77%, male il Credito Valtellinese oggi meno 5,90% tra i bancari. Euro a quota 1,27,1, dicevamo. Il numero per i vostri SMS è 349-238-6666. Questo per quello che riguarda i messaggi. Partiamo con le notizie in breve. Petrolio sempre sotto gli 80 dollari al barile, a 75,6 dollari, in calo anche oggi, meno 1,6%, mentre aumenta l'oro, aumenta proprio sui dubbi, i timori che il maxi piano di aiuti dell'Unione Europea potrebbe non essere abbastanza per contenere la crisi del debito in Europa, e allora l'oro va appunto a 5 mesi. Vedere che il petrolio continua a calare, l'oro sale, insomma, la dice lunga anche sulle incertezze, i timori che ancora esistono a livello internazionale sulla tenuta dei paesi europei e dei loro debiti soprattutto. Allora, infatti, anche l'euro appunto è andato sotto quota 1,28, è andato anche sotto quota 1,26. Un dato invece arriva dalla Cina, perché insomma qui c'è un mondo che è quello dove viviamo noi, in cui l'inflazione è bassa, è molto bassa, l'economia riparte molto lentamente, i prezzi delle case sono fermi e si spera in una ripartenza dell'export. E poi c'è un mondo, che è quello cinese, dove l'inflazione è alta, molto alta per i livelli cinesi, i prezzi delle case schizzano, l'economia continua a crescere a tassi a due cifre, vicini al 10%, e infatti l'inflazione cinese ha segnato il rialzo più forte da un anno e mezzo, più 2,8% i prezzi del consumo in Cina, con un record nell'andamento dei prezzi immobiliari in Cina. Pensate che i prezzi degli immobili sono balzati del 12,8% ad aprile rispetto all'anno prima, una crescita nei prezzi del mattone che non si è mai registrata in Cina da quando esiste l'indice, e cioè dal 2005. E secondo molti osservatori, a questo punto il governo cinese dovrà aumentare i tassi di interesse e aumentare, rivalutare anche lo yuan, che per noi sarebbe una buona notizia, insomma, almeno no, con un euro un po' più basso e una valuta cinese un po' più alta, un qualche aiuto alle esportazioni italiane, ma non solo, dovrebbe arrivare. Ancora dicevamo dell'Europa che ha frenato sui timori del piano, la mossa comunque della Banca Centrale Europea per acquistare i titoli di Stato ha fatto sentire anche oggi i suoi effetti, però e ha rallentato, diciamo, tutte le tensioni sui titoli di Stato europei. Tra l'altro, la differenza, lo spread fra il BTP italiano e il Bund tedesco si è mantenuta a livello stabile a 103,8 punti, un leggero rialzo rispetto ai 100 punti toccati ieri. Però oggi c'era un'asta per i bot italiani, no? L'Italia deve rifinanziare, è il paese che più deve rifinanziare il suo debito attraverso nuove emissioni di obbligazioni. E allora è tornato all'1,44% il rendimento del bot italiano su base annuale, il bot a 12 mesi, però quindi c'è stato un aumento. Ma l'importante e molto positivo è che a fronte di un'offerta del Tesoro per 5 miliardi e mezzo la richiesta sia stata quasi doppia, vicina agli 11 miliardi, quindi non c'è un problema a reperire soldi per finanziare il debito italiano, visto che la domanda è due volte superiore all'offerta. E oggi anche il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi ha messo in guardia, ha detto attenzione, la battaglia alla speculazione non si vince subito, non basta una seduta di borsa. È seguito poi la stima del Fondo Monetario Internazionale, che ha detto la ripresa nell'area euro è moderata e disomogenea, per cui la media fa più 1%, farà il PIL più 1% nel 2010, ma con grosse differenze. Per esempio la Spagna ancora avrà un calo, l'Irlanda avrà un calo e il PIL greco farà un meno 2%. Il PIL greco è previsto il deficit greco è previsto all'8,7% quest'anno contro il 13% dell'anno scorso, e meno 0,4% la Spagna quest'anno, meno 1% l'Irlanda, meno 0,7% Cipro, più 0,3% il PIL portoghese quest'anno, l'Italia più 0,8%. E adesso parliamo anche di un altro rapporto uscito oggi, quello dell'OCSE, su come vanno le retribuzioni, i salari e le tasse nei paesi membri dell'OCSE, nei 30 paesi membri dell'OCSE. Vi dico subito che per l'Italia continuano a esserci non notizie buone, tante tasse sul lavoro dipendente. Allora, siamo fermi al 23° posto su 30 paesi quanto a salari. Siamo praticamente con i salari più bassi nella classifica dei paesi OCSE. Guadagni inferiori al 16,5% rispetto alla media dei 30 paesi dell'organizzazione. Fanno riferimento al 2009 e almeno possiamo dire che non siamo scesi. Che vuol dire che, insomma, se la media dei paesi OCSE è di un guadagno di 1000 euro, che non è così, ma è per far capire, da noi il salario medio non è di 1000 euro ma di 840 euro al mese. Stiamo usando un esempio, non c'è un dato sul salario. Ma la cosa impressionante è che i salari netti italiani sono mediamente inferiori non solo a quelli di paesi come Stati Uniti, Germania, Francia e Gran Bretagna, ma anche a quelli di paesi che sembrerebbero, anzi sono in maggiore difficoltà, la Grecia, l'Irlanda e la Spagna. Cioè, lo stipendio italiano, nel caso considerato dall'OCSE, salario medio di un singolo senza carichi di famiglia, calcolato in dollari a parità di potere d'acquisto, ammonta a 22.000 dollari l'anno contro i 38.000 della Gran Bretagna e del Lussemburgo, i 28.000 della Germania, i 26.000 della Francia, noi siamo appunto a 22.000, e anche la Grecia ci batte al 19° posto, 25.500 euro, 21esima la Spagna, 25.400 euro, sempre più alta comunque dell'Italia. Abbiamo però un record, o quasi, siamo tra i paesi in cui si pagano maggiori tasse sul reddito del lavoro dipendente, il cosiddetto cuneo fiscale. Allora, noi siamo al 6° posto dopo Belgio, Ungheria, Germania, Francia e Austria, per cui anche in Germania, Francia e Austria la pressione è rilevante. Praticamente il peso delle tasse, il cuneo fiscale da noi è del 46,5% contro il 50,9% in Germania, il 49,2% in Francia e il 47,9% in Austria. chiaramente no, i salari che ho dato sono netti secondo l'Ocse, che ha preso una media del salario, non sono lordi, lo dico a chi scrive al 349 238 6666. E su questo il commento del segretario della CISL Raffaele Bonanni, che insomma qua produttività e le tasse frenano tutti i salari italiani. C'è bassa produttività e quindi non cresce il salario per effetto della bassa produttività. In secondo luogo perché sono sovraccaricati di tasse. Quindi aumentare la produttività, scalare le tasse sul salario, significa ridare al salario italiano la giusta dimensione a cui aspiriamo. E poi su questo è intervenuto anche il Presidente della Camera Gianfranco Fini in un convegno di Fare Futuro. Ha detto: l'Italia passa da un mercato del lavoro troppo rigido ad un eccesso opposto. Oggi c'è una flessibilità che significa permanente stato di precarietà. E questo è anche in contraddizione con il resto d'Europa. Lo dice appunto Gianfranco Fini, Presidente della Camera. E poi c'è il tema che noi sta molto a cuore, le piccole imprese, perché salari, occupazione passano da queste, visto che sono il 98%, 98,8% delle imprese italiane sono piccole, visto che la Banca Centrale Europea ha segnalato che il 40% delle piccole e medie imprese europee hanno avuto problemi con le banche nel 2009, la Banca d'Italia ha fotografato un calo addirittura del credito alle piccole e medie imprese da parte delle banche nella parte finale del 2009, altro che miglioramento, e un calo dei finanziamenti che è sceso soprattutto al nord, meno 3,5%, più 0,5% nel mezzogiorno. Vorremmo capire una volta tanto come fanno gli altri paesi a supportare, ad aiutare il sistema di imprese. E allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento il direttore del Dipartimento per l'imprenditoria e il rapporto con le banche, le politiche con le banche dell'Ocse, Sergio Arzeni. Buonasera. Buonasera. Allora, ci faccia capire, qui c'è un problema di piccole imprese, se ho ben capito, che soffrono un po' in tutta Europa nel rapporto con il credito. Per credito intendo questa volta non solo quello bancario, ma anche i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, di cui parliamo troppo poco. Pensate che in Italia praticamente le imprese vantano 70 miliardi di arretrati di pagamenti della pubblica amministrazione, principalmente la sanità, che paga in ritardo fino a oltre 200 giorni, la media è oltre 200 giorni, una cosa inaccettabile. Sono 70 miliardi di euro, più di qualunque tipo di iniziativa di incentivo. Come si muovono gli altri paesi che voi monitorate quindi in Europa? Beh, negli altri paesi si è risposto con una riduzione per legge dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Cioè dei tempi? 10 giorni massimo per il pagamento delle fatture da parte dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli. Per quanto riguarda la Francia, per esempio, si sono poste dei limiti, ma con delle penali per i ritardi di pagamento, massimo da parte dei privati sono 60 giorni il pagamento, dopodiché si pagano delle penali. Quindi quello del ritardo dei pagamenti è una specialità, una brutta specialità italiana che produce danni gravi a tutta l'economia italiana. Allora, lei citava il caso francese, possiamo andare più nello specifico? Cioè, l'Europa, insomma, sappiamo che in Scandinavia, per esempio, le difficoltà delle piccole imprese, a me interessa in generale come i governi si stanno muovendo anche verso le piccole imprese, a partire dal credito più o meno mancante, ma dicevo, in Scandinavia, se non ricordo male, le imprese che sono in difficoltà, cioè che sono in perdita, hanno avuto una sospensione del carico fiscale, così? Assolutamente sì, nel senso che chi ha delle difficoltà a pagare le tasse o a pagare i contributi sociali può avere un differimento inizialmente che è stato di un anno, che adesso è protratto di 2 anni, perché si considera che è meglio che un'azienda non paghi le tasse o i contributi sociali ma che sopravviva. che è un po' il principio opposto della nostra IRAP, che anzi va a colpire le imprese che hanno più manodopera e meno macchine, cioè è una tassa contro chi è labor intensive, cioè contro chi ha tanti dipendenti e poche macchine, favorisce invece chi ha pochi dipendenti e tanti macchinari. Vabbè. Questo per quello che riguarda la Scandinavia, ma sappiamo che la Scandinavia è distante, è un modello, è diversa, tutto un altro sistema. Veniamo alla Francia e alla Germania, che mi interessano di più perché sono più simili e vicine anche a noi. L'amministrazione francese è stata molto dura, sia nell'obbligare, come diceva, a pagare entro 10 giorni, massimo 60, quando la pubblica amministrazione deve pagare un'impresa, ma ha anche organizzato una specie di tavolo di concertazione, di monitoraggio per quello che è il flusso di denaro che le banche erogano o non erogano alle piccole imprese? Sì, in questo il meccanismo della mediazione del credito, possiamo dire, è per noi dell'Ocse, che l'abbiamo studiato, è una best practice, nel senso, cioè, che uno dei casi da imitare. È un caso da imitare perché ha permesso di salvare 10.000 imprese e 200.000 posti di lavoro in 12 mesi. E questo grazie al fatto che la mediazione è stata affidata ai direttori provinciali della Banca Centrale, della Banca di Francia, e utilizzando poi anche il concorso di Oseo, che è la banca delle piccole statale, delle piccole e medie imprese, che fornisce la garanzia dei crediti e dei mutui. Ecco, allora ci spieghi un po' meglio questo modello, perché insomma in Francia esiste intanto una banca apposita, statale, pubblica, per le piccole e medie imprese. Già questo, voglio dire, da noi si sta forse tentando qualcosa in questa direzione con la Banca del Sud, vedremo quando poi partiranno i decreti attuativi e quando nascerà. Ma insomma lì hanno già una banca dedicata al mondo dei piccoli e medi. E faccio presente che in Francia il peso della piccola industria è molto inferiore a quello che è in Italia, così come l'export e anche insomma la bravura, non me ne vogliono i francesi, della media e piccola industria francese privata è minore rispetto a quella italiana, esportiamo di più noi, i francesi sono molto forti nei grandi gruppi, spesso a partecipazione statale. Detto ciò, ci racconti, dottor Razzani, il modello francese per fare in modo che insomma non si creino così strozzature in quello che dovrebbe essere il flusso di denaro dalle banche verso le imprese, quando le imprese sono meritevoli di avere prestiti. Beh, la banca, il direttore del provinciale della banca centrale non può ovviamente obbligare la banca a dare un credito, però può obbligare a osservare il dossier, il caso della piccola impresa in maniera più obiettiva e favorire quello che si chiama banking relationship, la relazione fra banca e impresa, che con i grandi gruppi bancari si è molto persa, anche in Francia, non solo in Italia. Il gigantismo bancario ha fatto sì che la relazione tra imprenditore e il dialogo tra il piccolo imprenditore e il banchiere si è persa, perché è diventata tutta una procedura burocratico-amministrativa. La mediazione consente di ristabilire questo dialogo, e poi nei casi in cui viene acclarato se l'azienda è sana e merita, interviene la banca di Stato a fornire la garanzia, le garanzie addizionali che sono necessarie per la banca per rientrare nei parametri d'obbligo. E come le diceva, questo ha permesso di salvare, nel senso di mantenere flussi di cassa a 10.000 imprese piccole e medie in Francia, e garantire quindi 200.000 occupati. Più che mantenere il flusso di cassa, ha salvato dal fallimento 10.000 imprese e dal licenziamento 200.000 persone, che non è di questi tempi una cosa di poco conto, anche perché la questione dell'occupazione è una questione prioritaria. Poi, se lei vuole vedere oltre Atlantico, negli Stati Uniti, sulla questione piccola impresa e occupazione, il presidente Obama ha tassato del 50% i bonus dei banchieri di Wall Street, li ha dati, anche lì c'è un'agenzia, una banca delle PMI, alla Small Business Administration, perché dia un sussidio, un incentivo ad ogni piccola impresa che assume o mantiene un posto di lavoro. E devo dire che, come scrivono gli ascoltatori al 349-238-6666, è un po' strano, lo dico senza polemica, che in quello che è il paese delle piccole imprese, il 98% dei 5 milioni di imprese italiane sono piccole, sono sotto i 50 dipendenti, anzi sotto i 50 sono 99, sotto i 30 sono il 98%, il mondo delle imprese artigiane, il mondo delle imprese di commercio, il mondo delle piccole imprese di Confindustria e manifatturiere, non esista un sottosegretario, un ministero, men che meno un ministero dedicato alle piccole e medie imprese, come esiste invece una banca e un sottosegretario in Francia o appunto un riferimento anche lì governativo negli Stati Uniti. Grazie comunque al direttore del Dipartimento per l'imprenditoria e le politiche monetarie dell'OCSE, Sergio Azzeni. Bene, grazie a lei, arrivederci. E adesso passiamo al meteo, alla pubblicità e ai mercati. Vedo alcuni messaggi, sì, risponderemo anche a questo, perché è vero che da noi paga molto in ritardo anche la grande distribuzione rispetto ai fornitori, cioè tutto un meccanismo che poi va a scaricarsi sui singoli privati, ed addirittura si arriva al paradosso che le controllate francesi in Italia di grandi aziende francesi vengono utilizzate, siccome in Francia sono obbligati appunto a pagare in tempo, si preferisce ritardare i pagamenti verso alcune fornitori italiani, tanto qua si sa che tutti possono essere in ritardo, dalla Francia stessa dico. C'è poi una proposta di utilizzare questi crediti che le imprese vantano verso lo Stato come almeno crediti da poter girare alle banche, ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. La borsa ha chiuso in flessione, ma non sicuramente non sui minimi, mezzo punto percentuale di calo per il Mibtel. Dopo il meteo, di nuovo in diretta. ...17:42, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevo delle proposte per dare per in qualche modo arginare questo problema dei 60-70 miliardi che lo Stato, le pubbliche amministrazioni, non è lo Stato e basta, spesso sono le regioni, sono le ASL, la maggior parte sono crediti vantati verso la sanità, devono alle imprese italiane. Allora è chiaro che con questi chiari di luna, scusatemi il gioco di parole, non si possono far uscire 70 miliardi in un colpo solo, sono l'equivalente di tutto quello che paghiamo in un anno di interessi sul nostro debito, sono l'equivalente di 3, 4, forse anche 5 manovre finanziarie. E allora questo è impossibile. Calcolate che un punto di PIL sono 15 miliardi più o meno, quindi stiamo parlando di oltre 5 punti percentuali di PIL. È impensabile. Quello che si potrebbe fare, e ci sta lavorando la Confindustria assieme alla SACE, con il mondo bancario, è trovare un accordo per cui se un imprenditore vanta dei crediti nei confronti di una ASL, di una regione, di un comune, di un ministero, con l'assicurazione SACE può andare in banca e dire: io vanto, poniamo 300.000, mezzo milione di euro di crediti nei confronti di questo istituto, è garantito questa cosa dalla SACE, quindi posso avere l'equivalente o giù di lì di prestito bancario, quindi fare in modo che questi diventino una linea di credito in attesa che poi le amministrazioni paghino, ma che diventino almeno un elemento di maggior credito nei confronti della banca, se tu hai tutti questi soldi che vanti nei confronti della pubblica amministrazione in senso lato. Ci stanno lavorando appunto questi soggetti. Adesso però la borsa. Il finale è un mezzo punto percentuale di calo per Milano, meno 0,7 per Parigi, più 0,3 per Francoforte, che continua a essere la borsa migliore, meno 1% per Londra, più 0,3 per l'America. Devo dire che da noi c'è stato qualche vendita sui bancari Nel caso specifico la Popolare di Milano meno 3%, Azimut, ossia Risparmio Gestito meno 3,1, Monte dei Paschi meno 2,9, Mediolanum meno 2,6, anche qui Risparmio Gestito, ma non solo, Banco Popolare meno 2,6, Intesa meno 2,5 come Mediobanca, Fondiaria meno 2,3, Unipol meno 1,80, Ubibanca meno 0,7, e direi che ho detto tutto, sì, anche Unicredit l'abbiamo data. Meno 1,5% per la precisione, a 1,94 euro. Quindi più penalizzate oggi le banche, meno penalizzati altri titoli: Exor più 4,15, Bulgari più 2,80, Finmeccanica più 2,80, Fiat più 2,2, come Telecom, Terna più 1,70, Tenaris più 1,5, Pirelli più 0,80. Eleonora Micheli, Radio Colle sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Un primo commento poi dopo il traffico i titoli, ma insomma possiamo dire che oggi il mercato, per quanto più debole, quindi non c'è stata l'euforia di ieri, si è messo a distinguere tra settore bancario e altri settori industriali per la prima volta da quando, diciamo, dalla settimana scorsa. Esatto, va detto comunque che le banche ieri erano salite molto, Unicredit e Intesa erano arrivate a guadagnare il 20% circa nel durante della seduta. Si è fatto un distinguo, d'altra parte regna sovrana la volatilità, oggi gli indici erano arrivati a perdere il 3%, poi hanno recuperato e hanno chiuso con una perdita irrisoria. Sì, con mezzo punto percentuale è poca cosa rispetto a quello a cui ci stiamo abituando in queste sedute. Devo dire che la volatilità è molto alta anche sull'euro, il quale è passato da 1,28 a 1,26,9, adesso è 1,27,16. Per cui, se, per rispondere anche a molte domande, al 349-238-6666, la situazione si è stabilizzata, ma non è stabile. Traffico e poi titoli. ...17:48, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, posta la giornata di borsa in questi termini, andiamo con i titoli. Dicevamo già, penalizzate le banche, su cui oggettivamente si dovrebbero, in un mercato razionale, scaricare più tensioni che su altri titoli. Bene, Exor e Fiat, che è successo? Fiat si è messa in evidenza sin da questa mattina, poi ha chiuso più 2,25%, i titoli hanno beneficiato delle parole con le quali ieri l'amministratore delegato Sergio Marchionne ha fatto intendere che presto, probabilmente già nel secondo trimestre, potrebbero essere rivisti al rialzo gli obiettivi per Chrysler. E quindi questo ha appunto incoraggiato gli ordini in acquisto sul gruppo torinese. Exor invece ha allungato il passo soprattutto nell'ultima ora di contrattazione, in particolare dopo la pubblicazione dei conti del primo trimestre, conti che sono stati chiusi con un utile di oltre 31 milioni rispetto alla perdita di oltre 152 milioni dell'anno scorso. E poi è stato inoltre annunciato che entrerà nel consiglio di amministrazione della cassaforte di Casagnelli anche Sergio Marchionne, che peraltro verrà nominato componente del comitato strategico, e quindi questo ha dato letteralmente il là agli ordini in acquisto. Ancora, volete sapere il cambio con Franco Svizzero? È 1,4058, per cui siamo a questi livelli nei confronti euro, nei confronti di Franco Svizzero. Dicevo, Eleonora, i titoli legati al dollaro, perché insomma una cosa strana di questi giorni è che noi abbiamo alcuni titoli come Bulgari, Autogrill in primo luogo, che fatturano moltissima parte in dollari, e allora vanno giù quando il dollaro si indebolisce. Non li ho visti risalire così tanto quando il dollaro si rafforza, tranne Bulgari oggi, ecco perché ne parlo, più 2,86%. Sì, Bulgari oggi ha beneficiato tra l'altro anche dei conti del trimestre che sono stati resi noti ieri a borsa chiusa. La società del lusso ha infatti registrato una perdita nei primi tre mesi di oltre 8 milioni, però in netto ribasso rispetto a quella di oltre 29 milioni registrata nello stesso periodo del 2009. Inoltre anche l'amministratore delegato Francesco Trapani ha speso, diciamo, parole di ottimismo per i conti dei mesi a venire, quindi questo ha favorito la buona performance delle azioni. Sempre in tema di trimestrali, oggi Mediaset ha fatto più 54% nei primi tre mesi dell'anno, 92 milioni di euro come utile. Anche i ricavi sono saliti del 17%, bene anche la controllata Mondadori, meno 2,8% i ricavi, ma tiene, se non un settore editoriale, ed è tornato l'utile netto in Mondadori a 2 milioni e 400 mila euro. Nello stesso periodo del 2009, nei primi tre mesi, perse invece 1.800.000 euro. I titoli però non è che abbiano brillato su questo. Mediaset ha fatto un meno 0,6%. Sì, Mediaset comunque ha arginato le perdite rispetto alla prima parte della seduta, sia su spinta dei conti, sia appunto anche grazie al recupero dell'intero listino. Si è attestata infatti, ha registrato una performance in linea, diciamo, con quella del listino. Per contro sono andate bene le Mondadori, che sul finale hanno registrato un progresso del 2,5%. Ancora. Di trimestrali parliamo oggi per Terna. Bene l'utile del primo trimestre per la società che controlla la rete elettrica italiana, più 33% a 107 milioni. I ricavi fanno più 16% per Terna. Cala invece l'utile nei primi tre mesi dell'anno per Wind, quindi uno dei principali operatori di telefonia. Cala 3 milioni di euro, con però l'effetto di un rimborso nel mese di gennaio di 336 milioni di euro di debito, un rimborso anticipato rispetto alla scadenza prevista. Ultimo utile, ma non riguarda l'Italia, quello di Toyota, che nonostante i mega richiami di auto è riuscita a fare un utile, il primo dopo due anni, a 1 miliardo e 800 milioni di euro circa. Allora, questi i temi di le notizie di bilancio. Che è successo a Borgo Sesia, meno 9%, e anche sulle risparmie non convertibili, meno 8,44%. Ma non ci sono notizie particolari in borsa. Per cui non movimento semplicemente sul titolo. Invece, tra i titoli che perdono oggi, se leviamo le banche, c'è Impregilo, meno 2,35%. Sì, Impregilo invece è andata male sin da questa mattina, faceva sempre peggio dell'indice. Diciamo, la borsa ha penalizzato i titoli dopo la pubblicazione dei conti trimestrali, archiviati con ricavi in calo. I ricavi infatti del primo trimestre si sono attestati a 473 milioni contro i 725 dello stesso periodo del 2009. L'utile in verità è salito, ma a causa di poste straordinarie. Ancora, sempre volete sapere i migliori e i peggiori, vi do i migliori: Olidata più 9,4, Philips più 7,80, Filatura di Polone più 6,90, Tiscali più 6,45, ma siamo a 15 centesimi di euro, Poligrafici Editoriali più 6,2%. Tra chi più ha perso, oltre a quelli citati, Stefanel meno 8,20, Telefonica meno 6,40, e poi tra i bancari il peggiore in assoluto oggi è il Creto Valtellinese, meno 5,80%. Volete sapere degli energetici? Dopo un avvio debole, l'Eni ha chiuso con un più 0,5%. Bene oggi anche Snam Rete Gas più 0,7%. Terna non ha dato il risultato, più 1,7% dopo i conti. Tenaris più 1,5%. E ancora Finmeccanica più 2,80%. Visto che parlavamo di euro-dollaro, vi do anche Autogrill, che non è andata bene oggi, eccola qua, meno 1,5%, così come l'1,6% lo ha perso anche Saipem. Grazie, onore Michele, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Adesso c'è il GR, poi parliamo degli untori, dei monatti di questa crisi. C'è infatti chi scrive, ma insomma basta attaccare le agenzie di rating, basta attaccare la Germania, basta attaccare i fondi speculativi e i fondi hedge. Perché? Perché questa crisi è dovuta alle debolezze strutturali europee, all'incapacità di avere politiche uniche. State cercando solo scuse, e la Francia, con il suo atteggiamento, fa più danni a un'Europa credibile di quanti non faccia la Germania. Siccome noi abbiamo sempre raccontato il contrario, ce ne occupiamo volentieri dopo il GR 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia. In una giornata, lo dico chi si fosse appena messo in collegamento, in cui le borse sono state a Parigi e a Milano deboli, ma insomma meno 0,5% Milano, meno 0,7% Parigi, più 0,3% Francoforte, mezzo punto percentuale di rialzo adesso a New York, un punto percentuale di calo a Londra. E oggi c'è stato un po' più di discernimento sui mercati, cioè sono andati male i titoli bancari. Popolare Milano meno 3, Monte dei Paschi meno 3, Banco Popolare meno 2,60, Intesa meno 2,5, Unicredit ha perso l'1,5%, ma bene altri titoli, tra cui Exor, Bulgari, Finmeccanica, Fiat, Telecom, Terna, Tenaris, insomma un po' più di capacità di discernere tra settori. Noi restiamo sul tema invece di questa crisi perché oggi soprattutto sono arrivate alcune preoccupazioni da vari operatori, dicono ma insomma bisogna capire se il piano europeo reggerà. Atene questa mattina ha detto di avere intenzione di chiedere all'Europa il primo versamento da 20 miliardi di euro. La mossa della Banca Centrale Europea, cioè di acquistare titoli di Stato dell'area euro, ha un po' però rallentato l'andamento dei titoli di Stato, quindi lo spread, la differenza tra quanto rende un'obbligazione tedesca e quanto rendono le obbligazioni degli altri paesi. Questo per quello che riguarda in generale la situazione e poi anche le stime diffuse oggi dal Fondo Monetario Internazionale. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora andiamo subito con il primo tema, o meglio raccontiamo le varie dichiarazioni che si sono susseguite in questa giornata. Stime del Fondo Monetario, dicevo, l'Europa cresce in maniera disomogenea, una ripresa economica moderata, più 1%, ma disomogenea, tant'è che la Spagna farà un meno 2%, quasi meno 0,4% anche quest'anno. Peggior paese come PIL sarà la Grecia, meno 2% anche quest'anno. Negative, quindi in recessione anche per il 2010, le economie di Irlanda, meno 1,5%, Cipro, meno 0,7%. Il Portogallo avrà una leggerissima crescita, più 0,3%. Leggera crescita anche per l'Italia, più 0,8%. Allora, male la borsa greca, meno 2,5%, e allora parliamo dei monatti, o parliamo di questa crisi per meglio dire, perché insomma da più parti ci sono arrivati messaggi, ma come, le borse perdono il 15-20% in una settimana, poi recuperano i titoli un 20% in un giorno, ma che cos'è questa crisi, che crisi è? E allora su questo ci è tornata in mente una vecchissima canzone che avevamo fatto ascoltare qualche tempo fa, proprio su cos'è questa crisi. Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Eh sì, era Ettore Petrolini, ma con Ma cos'è questa crisi? 1930, quindi nel pieno della crisi del 29. Professor Roberto Perotti, che insegna macroeconomia all'Università Bocconi di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. L'ha sentito Petrolini, ma cos'è questa crisi? Insomma, mutando alcune cose, insomma, c'è del vero. Allora, che cos'è questa crisi? Glielo chiedo perché lei ha scritto su Sole 24 Ore: basta dare la colpa agli untori, ai monatti di questa peste, e dice nel caso specifico cosa c'entrano le agenzie di rating, cosa c'entra evocare gli speculatori, qui i problemi strutturali sono altri. Prima di arrivare al suo ragionamento le farei sentire il ministro dell'economia Giulio Tremonti ieri sera, che in qualche modo anche sulla falsa riga di quanto detto sempre ieri dalla presidente Confindustria Emma Marcegaglia, cioè siamo arrivati a un passo dal baratro, beh, ha dato una descrizione simile di quello che è successo la settimana scorsa e poi a cavallo del fine settimana. Chi ha seguito, chi ha vissuto questa storia nelle case, nelle imprese e naturalmente anche nell'attività a Bruxelles, beh, la partita che abbiamo giocato era una partita quasi per la vita e per la morte. Se fosse fallita avremmo avuto la caduta dell'euro e quindi del dollaro e delle altre monete e sarebbe stata una catastrofe quasi globale. Vuol dire che i soldi che c'è in tasca non valgono più e questo vuol dire nella vita delle persone, delle famiglie, una causa di grande sofferenza, soprattutto se non hai tanti soldi. E questo è sempre stato ben presente al governo italiano, a tutti noi, dietro i tabulati dei computer, dietro gli schermi, dietro i grafici. Ci sono sicuramente i numeri che si muovono, ma anche le famiglie e la vita di tutti noi. E questa è stata anche una delle ragioni dell'azione che abbiamo fatto, non solo tecnica, ma anche di convinta ispirazione per il bene comune. Allora, visto che, come dice il ministro Tremonti, siamo arrivati, si è giocata una battaglia tra la vita e la morte, non solo dell'euro ma anche della tenuta economica, vorrei capire perché secondo lei, poi vediamo la parte invece di chi sono secondo lei i veri bersagli, ma professor Perotti, perché le agenzie di rating e i fondi altamente speculativi sono dei falsi bersagli? Beh, le agenzie di rating, voglio essere chiaro, le agenzie di rating hanno fatto degli errori, e forse più che degli errori, durante la crisi finanziaria. Quindi sicuramente quando si parla di dare un rating a titoli singoli, a dei CDO, a questi famosi titoli derivati, le agenzie di rating ne hanno combinato un po' di tutti i colori. Però il mio ragionamento era che per quanto riguarda i titoli di Stato, le agenzie di rating sono ininfluenti, non credo che nessuno di noi debba aspettare quello che pensano le tre persone che si occupano della Grecia Moody's per capire che la Grecia è vicina alla bancarotta. Sono tutte informazioni che sono disponibili su internet e con un minimo di tempo e di voglia si può ricostruire la situazione della Grecia senza aspettare Moody's. Quindi il mio ragionamento è semplicemente che nessuno aspetta Moody's per decidere di vendere i titoli della Grecia. Sì, lei dice anche qualcosa di più, insomma c'è un atteggiamento europeo nei confronti, e per europeo lei intende più francese che tedesco, in cui si cerca di trovare il capro espiatorio per non voler ammettere i problemi strutturali di questa area geoeconomica che va sotto il nome di Eurolandia. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, professor Perotti, perché lei dice, insomma, solo i politici europei potevano proporre seriamente una soluzione, come soluzione un'agenzia di rating europea finanziata dall'Unione Europea? Una cosa, tra l'altro, su cui oggi è tornato il Presidente della Camera Gianfranco Fini. Allora, sentiamo Fini sull'agenzia di rating europea e poi vorrei capire perché lei ritiene un'ipotesi così, insomma, strampalata, tra virgolette. Dovrebbe essere, a mio modo di vedere, incoraggiata la proposta avanzata, seppur tra le righe, dalla cancelliera Merkel. Beh, l'Unione Europea, forse è arrivato il momento che si interroghi sulla opportunità o meno di un'agenzia di rating, diciamo così, europea, perché alcune sentenze di alcune agenzie di rating possono addirittura portare sulla soglia della bancarotta gli Stati, che poi alcune di quelle, le chiamo sentenze, di quelle valutazioni non siano propriamente le più corrispondenti al vero, lo dimostra tra i tanti aspetti il fatto che un'agenzia, dico il peccato e non il peccatore, aveva promosso a pieni voti la Lehman Brothers, credo 3 giorni prima del fallimento della medesima. Allora, innegabile che le agenzie di rating abbiano commesso degli errori, Lehman Brothers, ma io cito sempre anche Enron, Parmalat e quant'altro. Perché non ha senso proporre un'agenzia che non sia... Noi ieri abbiamo fatto ascoltare il professore chi sono i controllori di questa agenzia di rating. Ora, vedere che, con massimo rispetto, Warren Buffett è il primo azionista di Moody's e che comunque i principali fondi di investimento americani sono i principali azionisti anche di Standard & Poor's, insomma, qualche dubbio ogni tanto sui conflitti di interesse lo lascia. Perché non si può avere un'agenzia di rating europea? No, ma certo, conflitti di interesse ce ne sono stati tanti altri problemi, ma ripeto, per dare rating a azioni singole o a strumenti derivati, ma per un titolo di Stato, come si può pensare che l'Unione Europea finanzia l'agenzia di rating che poi deve dare il rating a uno degli Stati che compongono l'Unione Europea? Come si può pensare che questa agenzia di rating venga presa sul serio? Sembra una delle idee più strampalate che siano mai uscite dall'Unione Europea. Sì, devo anche dire però come si fa a pensare che un'agenzia di rating controllata dai fondi che investono e speculano possa dare giudizi su così approssimativi come quelli che ha dato Moody's sull'effetto domino di questa crisi che potrebbe contagiare alcune banche europee. Insomma, questo io devo dire, io il report di Moody's l'ho letto e devo dire che per quanto riguarda, tutti accusano Moody's di aver causato una... Beh, era un po' vaga, un po' come dire, io dicevo ieri l'esempio, un professore che dicesse in questa classe qualcuno a fine d'anno sarà bocciato, fai nomi e cognomi, dai voti, ma non dire cose no, così generiche. Io devo dire che il report l'ho letto da cima a fondo e devo dire che era un report completamente ragionevole. Per quanto riguarda l'Italia, dava dei giudizi completamente ragionevoli e non allarmistici, che credo tutti avrebbero condiviso. Diceva semplicemente, se dovesse capitare un contagio ai titoli di Stato italiano, che non è detto che accada, erano molto chiari, se dovesse accadere questi sono i problemi che ci sarebbero sul sistema bancario italiano, problema numero uno, problema numero due, tre, erano tutte un'analisi estremamente ragionevole. Comunque, l'altro motivo, lei dice, non incolpate le agenzie di rating e né i fondi hedge, cioè i fondi che lavorano con operazioni a forte leva, altamente speculative. Perché anche i fondi andrebbero... No, per due motivi. Primo, perché c'è questa idea che le azioni possono solo salire. C'è questa idea in Europa che le azioni possono solo salire. Se scendono è colpa degli speculatori, se salgono è merito dei politici. Le azioni salgono e scendono. Nell'ultimo anno, dal 9 marzo del 2009, sono salite di più del 60% e adesso stanno scendendo, ma è la vita. Quindi questa è un'idea che c'è in Europa, che per forza gli speculatori sono, tutte le volte che il mercato scende sono gli speculatori. Sì. Secondo, c'è questa idea che quando il mercato scende deve essere per forza lo speculatore, no, può essere benissimo una persona che vende, tanti piccoli azionisti hanno venduto giustamente, se sono riusciti hanno venduto in tempo i titoli della Grecia se li possedevano, del Portogallo, quindi non è necessario che uno speculi al ribasso. Basta che ci sia tanta gente che vuole vendere, semplicemente vendere. Non è un crimine vendere se si pensa che il prezzo andrà giù. Nessuno sì. Di noi compra una casa per un appartamento per il proprio figlio se pensa che il prezzo andrà giù tra un mese, aspetta e lo vende e lo compra fra un mese. Questo è semplicemente un atteggiamento prudenziale che vale per un sacco di gente, anche piccoli risparmiatori. Tra l'altro io non so come faccia la gente a dire che gli hedge funds sono dietro la speculazione in questi giorni, perché i dati sugli hedge funds non li abbiamo. E quindi questa idea che gli hedge funds sempre e comunque speculino contro è una leggenda metropolitana che tra l'altro non ha riscontro, perché per esempio la crisi finanziaria non sono state certo gli hedge funds che sono stati dietro la crisi finanziaria. Io non ho nessun interesse a difendere gli hedge funds. No, ma ho capito il suo punto di vista. Devo dire una cosa però, è vero che si dice sempre se è speculazione quando il mercato cala e mai quando il mercato cresce. È vero che noi ieri l'abbiamo ricordato, si dice sempre bruciati 150 miliardi, non come abbiamo fatto ieri, creati di capitalizzazione più di 300 miliardi, 340 se non ricordo male, 150 miliardi di euro. Quello che ha lasciato molto perplesso non è tanto che il mercato possa calare, è il modo, l'intensità, la velocità con cui è calato e il modo, l'intensità con cui è cresciuto. Io per questo parlo di speculazione, cioè fare vedere che i titoli industriali perdono il 15% in due sedute, poi guadagnano il 10-12% in un'altra seduta, vuol dire giocare alla borsa in un altro modo e non investendo sui titoli e dividendi e prospettive industriali. Però avrei un'ultima domanda per lei. Cioè, c'è chi dice, insomma, in realtà è più europeista la Germania perché vuole tenere rigore sui conti, mantenere l'euro come moneta forte, ed è meno europeista, anche se sembra contrario, la Francia, che vorrebbe, in una logica anche un po' più all'italiana delle volte, mettere sotto controllo la Banca Centrale Europea, avere politiche, fare gli eurobond, cioè la politica che governa anche l'aspetto monetario e non l'indipendenza della Banca Centrale Europea. Io però le chiedo, cioè, la Germania è terrorizzata da sempre, da quando si pensò a creare l'euro, dall'inflazione, dal debito, dal deficit, ma per quanto tempo dovremmo pagare la sindrome tedesca della Repubblica di Weimar che portò poi al nazismo? Capisco la domanda, però secondo me ci dimentichiamo del motivo per cui noi, la Grecia, il Portogallo, la Spagna, quasi tutti eccetto l'Olanda, la Germania, siamo entrati nella zona dell'euro. Eravamo tutti consapevoli del problema dell'euro, cioè il problema dell'euro è che se noi abbiamo uno shock negativo e nessuno vuole più comprare automobile italiano, abbiamo bisogno di svalutare, non lo possiamo più fare. Ne eravamo consapevoli, abbiamo accettato questo rischio perché volevamo aggregarci a una banca centrale che ci proteggesse dall'inflazione, e la Banca Centrale Europea ci proteggeva dall'inflazione perché era molto simile alla Bundesbank, quindi questo era il motivo per cui siamo entrati nell'euro. Quindi finché c'è stato comodo l'abbiamo seguito, e ci ha fatto comodo perché insomma dagli anni 80 ad adesso l'inflazione in Italia è caduta del 15-20%. E adesso, da un punto di vista politico lo capisco, però adesso accusiamo la Germania di fare quello che ci aveva fatto comodo fino a pochi anni fa. Cioè finché ci faceva comodo andava bene anche noi un controllo dell'inflazione. Sì, guardi, noi ospitiamo qualunque opinione, sono parzialmente d'accordo con lei, per esempio non sono dell'idea che anche i piccoli abbiano contribuito alle vendite in questi giorni, penso che tutti i movimenti, dalla forza e l'intensità che hanno avuto, sono arrivati da grandi fondi, da grandi investitori, i piccoli sono rimasti alla finestra. Sull'agenzia di rating ci può essere anche un po' di così scusa europea. Comunque l'importante è avere anche opinioni diverse in questo programma, come sempre. Grazie all'economista Roberto Perotti, che insegna macroeconomia alla Bocconi di Milano e editorialista del Sole 24 Ore. Grazie, arrivederci. Ed è veramente tutto per questa puntata. Continuate a chiederci cosa sono le vendite allo scoperto e perché non vengono bloccate. Perché non vengono bloccate? Non lo so, lo è stato fatto durante il fallimento di Lehman Brothers. Ieri abbiamo dato una spiegazione molto veloce, qualche purista si è lamentato. Allora, nella vendita allo scoperto non si acquista, si vende un titolo con l'impegno di riacquistarlo. È chiaro che acquistarlo a un prezzo più basso significa guadagnare, semplicemente è una cosa permessa in questo modo. E se lo riacquisti a un prezzo più alto, perdi. È l'ultima informazione di questa puntata. Da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.